RadioTube Social Network. Eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube. Nella prima ora abbiamo parlato di Cops, la nuova commedia, per ora in due capitoli, ma abbiamo capito che diventerà una serie su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre. È stato con noi Frankie High Energy, è stato con noi Edoardo Bennato e adesso abbiamo parlato di questo libro pazzesco, Amore, Morte, Rock and Roll, molto affascinante. E adesso la seconda ora di RadioTube, quella della settimana, dell'attualità della settimana della rete e dalla rete, quella di RadioTube Social Network, ma anche quella con il co-conduttore d'eccezione. Gli piace così tanto stare in redazione che è tornato dopo aver fatto l'alba, Enrico Pagliarini. Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti. No, io sono veramente, adesso c'era Piera Cecchi. Un saluto anche a Valeria Bernardi che è in regia, che non si capisce che cosa stia dicendo con la testa. Sta facendo di no, ti sta disapprovando, probabilmente sta disapprovando te, esatto. Per qualche ragione dice di sì. No, c'era Piera Cecchi di là in redazione che mi ha detto: ma hai fatto tornare Enrico, era qua stamattina? E ogni tanto. Ho fatto una passeggiata qua attorno. Ogni tanto, mi fa piacere, così ci facciamo. No, perché se uno sta qua poi davanti al microfono c'è un po' l'adrenalina, esce e collassa per terra. Vero. Infatti a me ogni tanto dicono: ah, ma cosa fai il sabato sera? Io mi spengo. Ho fatto una passeggiata, ho visto delle luci di Natale bellissime davanti a case, bellissime, e io pensavo: ma io quando cerco le luci di Natale così belle non le vedo mai. Mandami mai. Poi se mi mandi una foto via bellissima. WhatsApp e vedo se te le trovo, perché io sono esperta in di luci di Natale. Okay. Sì, addobbi natalizio, okay. sono abbastanza ferrata sull'addobbo natalizio. Dai, è il momento degli audio della settimana. Allora, purtroppo il primo capitolo non è un capitolo piacevole, questa settimana un altro grave, gravissimo lutto. Ecco qua. Nel momento in cui stava morendo non se ne voleva andare, l'ho tracciato forte e ho detto: Paola, adesso vai, ora basta, certo corpo, adesso staccati, lasci questo corpo e vai, io devi stare sereno. Il coraggio ci ha sempre dato per affrontare la vita, la personalità, l'amore, ci ha insegnato a essere attivisti, ad aiutare gli altri, era fatto così. Mi ha trovato è fenomenale, è un papà fantastico, una persona molto semplice e umile. Come l'avete conosciuto un po' tutti voi, insomma. Allora, la scomparsa di Paolo Rossi, ovviamente grandissimo cordoglio che subito ha fatto, come si suol dire, il giro dei social, e poi questa mattina queste foto pazzesche, queste foto, quelle foto che si capisce subito che poi passano alla storia, dei suoi compagni di Spagna 82 che sorreggono la bara. L'amico Filippo Sensi ha commentato: gigante sulle spalle dei giganti. Enrico, io ho avuto l'impressione che fosse il cordoglio per una brava persona. Io personalmente l'ho incontrato solo per ragioni professionali un paio di volte. E ti dico la verità, la prima volta che l'ho intervistato ero molto emozionata, perché poi non facendo parte del mio mondo, mi fa sempre strano incontrare persone che non fanno parte del mondo che frequento e che ho sempre visto come così lontani. Estremamente gentile, estremamente cordiale, una persona sorridente. Però secondo me anche un po' lo spegnersi di un mondo lontano che un po' rimpiangiamo. Ah, non c'è dubbio. Sicuramente confermo quello che dicevi. Sai, su tanti personaggi si sentono e ci sentiamo dire cose off the record, fuori dal microfono. Devo dire che nel caso, soprattutto nel caso di Paolo Rossi, quello che ci siamo sentiti dire da persone che lo hanno incontrato fuori dai microfoni è sostanzialmente esattamente quello che tutti hanno detto davanti ai microfoni. Una persona splendida, meravigliosa. Io non l'ho mai incontrata, anche perché non mi occupo né per passione né per mestiere di calcio. Ma a me è capitato solo, sai, magari in occasioni di presentazioni televisive, di programmi o di cose calcistiche. Certo. Quindi per me è un mondo proprio lontano. No, io l'unico ricordo proprio forte a distanza di tanti anni è quello di quella notte dei mondiali. Ero in montagna, bambino, e Anch'io tornavo dalla montagna bambina, ero piccolissima, ma mi ricordo, tornavo con i nonni dalla montagna. E infatti ogni tanto qualcuno mi chiede adesso perché squadra tifi. A me il calcio ormai appassiona molto meno, forse perché abbiamo vissuto queste epopee così leggendarie, così. Sono io, tu sei un grande appassionato di Formula 1. Sì, mi piace. Beh, molto, anche se la Ferrari perde, però mi piace. Sì, però voi diciamo, cioè, che è forse l'unico sport che mi emoziona veramente. Cioè io vedere una partenza e guardare una gara di Formula 1 per me è proprio un evento, e quindi, cioè, anche domani, che è una gara fondamentalmente poco utile, dove non c'è quasi nulla da dire, ormai il campionato è andato, però io domani mi guardo tutta la gara dall'inizio alla fine. Allora, io so che ti appassionano molto le gare di Formula 1, ma c'è un'altra cosa che ti appassiona, e sono alcune cose spaziali. Ah, sì, sì, sì. Ok, allora, ce l'abbiamo questo video, anche questo, molto condiviso questa settimana, eccolo. It looks like a scene from a Hollywood blockbuster. It looks like a scene. Sembra una scena da un blockbuster di Hollywood. Da un film, sì. Che cos'è? Che cos'è, Enrico? Allora, questa che abbiamo sentito, questo è il rumore di un'esplosione di una navicella che quasi sicuramente vedremo nel futuro dello spazio. Stiamo parlando di una navicella che si chiama Starship di SpaceX, azienda di Elon Musk. E questa è proprio una idea impossibile di Elon Musk, nata ormai 8 anni fa. Io me lo immagino, Elon Musk gli dice: ma per andare su Marte che cosa ci vorrebbe? Gli ingegneri che gli dicono: una roba, no, ma non si può fare. Ma quanto dovrebbe essere grossa? Ma guarda, una cosa da 120 metri, gigantesca. Ok, facciamola. Certo. E dopo tanti anni sono riusciti a farlo. Allora, questo video, che è stato molto visto, molto condiviso questa settimana, che si conclude con questa esplosione pazzesca, potrebbe portare a conclusioni sbagliate. Cioè, se uno guarda il video... Spiegami, perché io ho visto, soprattutto su Twitter, tutti commentavano: beh, ma Elon Musk è contento lo stesso. E infatti, e perché? Sì, sì, ma anche gli esperti sono contenti, perché in realtà l'esplosione è un cattivo finale di una bella, di una bella storia, comunque di un test che ha funzionato, diciamo al 95%. Ci sono stati degli altri test, però questo è un po' forse quello più importante degli ultimi mesi. È stata fatta andare a 12 km di altezza questa navicella spaziale, che per semplicità, ma proprio per semplificare molto, è una specie di space shuttle del futuro che dovrebbe essere messo sopra un razzo che appunto è altissimo. Ha fatto questo test che ha funzionato in tutte le sue fasi, e purtroppo c'è stato un piccolo problema nella fase di atterraggio, quando è rientrata sulla Terra, ed è esploso all'atterraggio sulla piazzola. Però, ripeto, tutte le altre fasi hanno funzionato molto bene, quindi tutti, compreso Elon Musk, dicono: il test ha funzionato. Meglio che si sia rotto durante un test. Appunto, esatto. Insomma. Però manca ancora almeno 2 anni, perché in teoria... Beh, questa... non sono tanti, no, però, no, no, due infatti, anni. No. In teoria questa navicella accoppiata con un razzo molto, molto potente, molto grosso, e il tutto sarà alto più di 120 metri, dovrebbe andare in orbita lunare, non atterrerà, con persone a bordo nel 2023. Ammettiamo, come tutte le cose dello spazio, che ci sia qualche ritardo, però diciamo che dopo se non rispettano il 2023, sarà il 2025, 2026. No? 2024 no, perché è la tua trasmissione. No, quella lo saltiamo. No, ma il 2024 cosa fai? Tu cambi titolo? Quando è nel 2024? Chiudiamo, io finisco, vado via. Chiudiamo. Finito tutto. Va bene. Allora, pausa, viabilità, poi saremo ancora insieme con Radio TV tra poco. RadioTube Social Network. Eccoci ancora con il nostro RadioTube Social Network, con il nostro co-conduttore d'eccezione di oggi, Enrico Pagliarini. Eccoci qua, Enrico, che ha fatto... Ormai è buio. Allora, anno che si conclude, quindi quando si conclude l'anno si fanno le classifiche. E quando si fanno le classifiche, diciamo che un po' si rivide l'anno che è passato, e quest'anno è un anno talmente particolare che lo si può leggere in maniera molto, molto chiara e tragica, ad esempio dalle classifiche di YouTube. Cioè, quali sono i video che abbiamo visto di più su YouTube quest'anno? Allora, andiamo a vedere un po' di classifica e lo facciamo anche con l'aiuto di un amico di Radio Tube che è tornato a collegarsi con noi, Michele Boroni. Ciao Michele! Ciao a tutti, ciao Marta, ciao, ciao Michele. Allora, quest'anno le classifiche di YouTube dicono moltissimo, anche perché siamo stati a casa, abbiamo visto un sacco di video, la verità è questa, cioè ne abbiamo visti di più probabilmente. Che dici Michele? Sì, decisamente, è cambiato proprio quella che viene detta la dieta mediatica, no? Cioè si è molto, insomma, le ore sono aumentate di più in rete e anche in televisione, insomma, in questo caso parliamo di video di YouTube, sicuramente sono diventati la fonte principale di informazione e di intrattenimento. Anche se al primo posto c'è proprio un video che viene dalla TV, che è stato ripreso da YouTube, ecco qual è il video dell'anno, chissà se lo indovinate, eccolo qua. Brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, certo di dormire è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia, di grazie al cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io. Che succede? C'è un problema. Dove è andato? Scusate, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo! Dov'è Bugo? Allora, Enrico, te la ricordavi questa scena di Sanremo? Cioè, me la ricordo perché se ne è parlato il giorno dopo, i giorni dopo. Per un paio di settimane se ne è parlato, era il momento. Quindi travolto da tutte queste notizie, ho detto, vabbè, ma andiamo a vedere cosa è successo. Beh, sì, perché diciamo quella che sera Enrico lì non è un appassionato. Accorto, no? No, allora, Enrico Pagliarini guarda il Festival di Sanremo solo se è in turno la sera e io gli dico, ma no, ma Enrico, sono guarda costretto. Sanremo che ci... Sì. Solo quando è costretto, esatto. Vabbè, insomma. Però questo è secondo me un video fondamentale perché è il video del prima, è l'ultimo video del prima. Ah sì, giusto, è vero. Cioè è una cosa, Michele, ti ricordi, cioè, per due settimane i costumi di carnevale di quelli che si travestivano da Bugo e Morgan, cioè, sembra due vite fa, non sembra 10 mesi fa. Sì, decisamente sembra un'altra epoca, ma la cosa di Bugo e di Morgan è stata così divertente perché è totalmente inaspettata, anche nelle classiche, cioè ogni Sanremo ha le sue polemiche che sono sempre un po' dietro le quinte, quello che parla male di quell'altro, ma una cosa che avveniva così sul palco che ci ha lasciato tutti quanti esterrefatti, era veramente una delle poche volte che succedeva, quindi è chiaro che in Italia abbia avuto questa eco. E poi io immagino che anche a marzo, quando invece c'è stato il lockdown, questa cosa abbia continuato a essere vista proprio perché stavamo a casa e continuavamo sui social, anche perché molte televisioni, come dire, hanno continuato questa sorta di programmi televisivi, questa sorta di sceneggiato, invitando l'uno l'altro, schieramenti. Le madri, le nonne, le Quindi questo è il video più visto dell'anno? Eh sì, questo è il video certo più visto dell'anno di YouTube. Però è avvantaggiato dal fatto che è un video di febbraio. Cioè, è un video di febbraio, nel senso che sì. Un video quello di settembre vuol dire, vuol dire sì, quindi sì, diciamo che dire. C'ha questo vantaggio, no? Allora intanto vi dico che al secondo posto il sorvolo delle frecce tricolori su Roma a 360 gradi dell'aeronautica militare, beh, un bel video da vedere, sì, da sentire, sì. ci dice meno alla radio, ma un video molto bello da sentire, sì. E invece il terzo video più visto su YouTube è un altro video che secondo me parla molto di noi e molto del 2020. Eccolo. Sentiamo. Ragazzi, allora oggi facciamo insieme quel pane che molti di voi hanno visto sulle storie di Instagram che ho preparato l'altra sera, che è un pane facilissimo per chi non sa fare il pane, tipo me, che vi darà un sacco di soddisfazione perché veramente è poco impegnativo, pochi passaggi, potete organizzarvi i tempi come vi pare. E quindi allora, intanto fatemi mandare a distanza un grande bacio, un grande abbraccio a Benedetta Rossi e a suo marito Marco, che sono dei nostri cari amici di RadioTube, ai quali vogliamo molto bene. Beh, Enrico, cioè, che dire, l'anno del pane fatto in casa. Cioè, perlomeno il primo lockdown, la fase 1, è quella del lievito del pane fatto in casa. Sì, che se uno le voleva comprare non si trovavano, oltre a tante altre cose. Sì, lievito e farina. Però effettivamente questo è veramente, più che Morgan e Bugo, è più, diciamo, descrive l'anno. È il dopo. Sì, descrive quello che abbiamo vissuto, soprattutto in quella prima fase, che era, io ricordo i giorni in cui tra i pochi della radio venivo qui negli studi e a qualsiasi ora del giorno non c'era nessuno in giro. Oggi la situazione, oggi che insomma c'è questo lockdown morbido, o comunque alla sera, c'è la situazione molto molto molto diversa. Effettivamente questa, io spero che molti abbiano imparato a fare il pane. Io devo dirti, non ero una panificatrice, ero una di quelle che andava in giro. Non mi era presa questa cosa del pane, però ci ha caratterizzato molto. Michele, che ne dici? La fase pane, tra l'altro non solo italiana, perché so che più o meno dappertutto, perlomeno in Europa, nei paesi più affini a noi, è successa questa cosa del pane. Sì, sono cambiati decisamente proprio i consumi alimentari, insomma. Io so chi aveva comunque un piccolo orticello, eccetera, era considerato come una persona, come dire, un vero benestante, e sì, è stata l'epoca del do it yourself, quindi uno cercava di arrangiarsi anche da un punto di vista alimentare. E da questo punto di vista Benedetta, insomma, l'altra Benedetta. Benedetta, no? Rossi, sì. Benedetta Rossi, no? Sì, perché prima c'era Benedetta, era Benedetta Parodi, poi è arrivata Parodi, Benedetta Rossi. Infatti. E lei è stata proprio un simbolo, anche perché, come dire, ha insegnato a tutti quanti a fare il pane senza avere la macchina del pane, insomma, quindi attraverso il forno, insomma, non so bene qual era la ricetta, però so che era una cosa molto semplice, con pochi ingredienti, e alla fine so che il risultato era ottimo. Ma infatti, allora, qui rigira, l'unico panificatore qua è Pagliarini. Enrico, no, effettivamente... Farina, acqua, se uno vuole un po' di sale si può anche uno usare il sale, sì. Lievito. Lievito, basta. Però poco lievito, il trucco del pane è il tempo, bisogna lasciarlo lievitare. Enrico è bravo. Però no, ma non ci vuole un genio. Comunque devo dire che ne parlavamo prima della trasmissione con Enrico e mi chiedeva quale poteva essere il segreto di Benedetta. Secondo me è proprio questo. La genuinità, sì. La semplicità, la genuinità, il fatto che comunque tu vedi una persona della quale ti fidi. Sì, sì, no, ti seguo, sono d'accordo, non voglio rubare la parola a Boroni, però effettivamente ci sono tanti tipi di pane e ci sono anche alcuni tipi di pane che sono un po' complicati, sia perché ogni ora magari devi rimescolarlo, devi stare attento, oppure ci sono delle lievitazioni molto lunghe, quindi uno, certo, adesso molti sono in casa, quindi non hanno quel problema, però effettivamente devi star lì, no? E ci sono anche dei pani invece che sono particolarmente semplici, quindi immagino, adesso io non la ricordo questa ricetta, però se è una ricetta così vista che fa parte della classifica dei video dell'anno, immagino che sia molto semplice, perché anche con panificazioni molto semplici si possono fare dei pani molto buoni. Bello, bello. Pagliarini panificatore, non so se gli ascoltatori se l'aspettavano, ma... No, bene. Perché bisogna sempre il piano B. Cioè uno dice, vabbè, ma che va, faccio il panettiere. Certo, certo. No, perché per Pagliarini cucina, è bravo Enrico. Sì, allora, adesso non esageriamo, però cucina. Allora, resto della classifica. I Pantellas, video lezioni studenti versus prof, i Pantellas con Favij J, quindi insomma nomi importanti tra gli youtuber. When Gamers Fail... Quindi siamo nel mondo dei gamers, anche quello universo. Poi il calcio, Serie A, Milan 4-2, Juventus rimonta clamorosa, Serie A Team, quindi questo video ufficiale. Poi abbiamo al settimo posto un video da Italia's Got Talent, all'ottavo posto un video da X Factor Italia, al nono posto Ministero della Salute per tornare tutti insieme a sorridere come usare le mascherine, e devo dire che qua, ovviamente questo capiamo che era proprio segno dei tempi. Però bisognerebbe agevolare ancora di più la visione di questo video. Sì, no? perché dopo, nonostante dopo quasi un anno ci sono ancora delle resistenze così a imparare il corretto uso. Sentiamo qualche secondo del decimo della top ten. Eccolo qua. Sapete, io amo i mezzi elettrici di qualsiasi genere. Se ne sta parlando molto ultimamente. Sicuramente un ottimo mezzo per spostarsi in modo sostenibile, ma come tutte le cose nuove, anche tanta gente che li usa, diciamo, male. Quindi, per sensibilizzare il mondo su questi mezzi, ho deciso di andare a Roma in monopattino elettrico. Questa l'avevi vista, Enrico? No, molto carino. Da Roma da dove? Da Milano. Perché uno sta a Ostia. Ah, okay. Ha fatto Jackie Dale, Milano-Roma in monopattino elettrico. Bravo. Bravo, l'idea ben fatto, idea molto carina, video girato molto bene. E poi monopattino, Michele, uno dei simboli del 2020. Non uno dei simboli che amo di più, ma uno dei simboli del 2020, dai. Sì, decisamente. Anche se ultimamente l'immagine del monopattino ora è nelle piazze deserte di Milano e di Roma, lasciati così, abbandonati quelli del comune, e non è una cosa bella, insomma, vedere come un servizio, insomma, che è stato implementato per cercare di agevolare la mobilità, poi viene tralasciato dai cittadini. Ecco, questo è veramente un peccato, però comunque sì, con i suoi pro e con i suoi contro, il monopattino elettrico è stato sicuramente il mezzo dell'anno. E quindi abbiamo visto come questa top 10 di YouTube del 2020 ha parlato davvero di noi. Prima della pausa vorrei invece segnalarvi i video musicali più popolari in Italia. Al primo posto Boom da Bash, Alessandra Amoroso, Karaoke. Boom da Bash, che avremo domenica prossima a Radio Tube Intervista. Al secondo posto Francesco Gabbani, che è arrivato secondo a Sanremo, ma in classifica è prima di Diodato. Però questi sono i video, Terzo posto Rocco Ante e Anna Mena, Un passo dalla luna. Poi Baby K, Elettra Lamborghini, Takagi e Ketra, quindi c'è ancora un pezzo di Boom da Bash. Diodato, ecco il vincitore di Sanremo, al settimo posto, Gali, Mahmood e Gaia, quindi molto giovane questa classifica. Ha vinto il tormentone estivo. Ha vinto il tormentone estivo, nonostante l'estate, appunto, uno veda meno il mobile, insomma, YouTube, eccetera, però alla fine vince sempre il tormentone estivo su tutto. Sì. Allora, ragazzi, un pochino di pausa. Volevo dire a Enrico che Morena da Perugia ha scritto: mi piace questa coppia Pagliarini-Cagnola. Vabbè, ma coppia di lungo corso. Sì. Infatti, allora, noi siamo in onda senza mascherina, ma siamo praticamente congiunti, perché noi siamo in redazione da 8 mesi insieme. Sì, diciamo che appunto non ci sono, ormai la convivenza è di lungo, lunghissimo corso. Pausa e poi saremo ancora insieme con Radio Tube. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube Social Network e con il co-conduttore d'eccezione di oggi, Enrico Pagliarini. Enrico, buonasera, allora, buonasera di nuovo. Abbiamo parlato a quelli che si sono messi in ascolto adesso. Abbiamo parlato della top 10 di YouTube, che ci ha raccontato un po' del 2020, con il nostro ospite Michele Boroni. Rieccoti, Michele. Eccomi qua. Allora, però c'è un'altra notizia clamorosa. Sai, Enrico, in questa fine del 2020, ma una notizia clamorosissima. Quando l'ho letta ho detto, non c'è tipo... più il catalogo dell'IKEA. Ah sì, l'ho sentita questa, è vero. Beh, allora, perché devi sapere che io aspetto ogni anno che esca il catalogo, perché Michele fa un'analisi sociologica vera, perché dice tante cose il catalogo IKEA. Tipo sui nomi nuovi dei mobili? Non solo. Ad esempio, Michele, che cosa ci ha detto negli anni quel catalogo? Ah, guarda, ogni anno riusciva, cioè IKEA sono stati molto bravi a fare in modo di trasformare quello che era un normale catalogo commerciale in una sorta di saggio antropologico del nostro vivere e del nostro abitare, fondamentalmente, e quindi quasi è diventato una sorta di magazine lifestyle, e che anno dopo anno faceva capire quelli che erano un po' i mutamenti sociologici. In quest'ultimo anno ovviamente c'era tutto il tema dello smart working e quindi quello di convivere, quindi lavorare in casa e far convivere i ragazzini che ormai non stanno neanche più nella propria cameretta, ma hanno invaso intanto il salotto, e poi anche, che ne so, la piccola palestra in casa, il bagno che si trasformava in una piccola spa. E quindi un non una sala da pranzo per un convivio di 20 persone, questo magari gli anni scorsi, non quest'anno. E ora cosa succede? Cioè, IKEA aveva già abbandonato in parte il catalogo cartaceo, era già diventato non cartaceo, ma adesso abbandona proprio l'idea? No, in realtà il catalogo fino a quest'anno non era stato abbandonato, diciamo che si era ridotto molto la distribuzione. Sì. Vi ricordate magari nel 2016, che è stato veramente l'anno del picco della distribuzione del catalogo, sono state distribuite 219 milioni di copie in 32 lingue, al punto che in quell'anno uscì un documentario BBC che sancì che il catalogo IKEA era la pubblicazione più diffusa e letta al mondo, ancora più della Bibbia e del Corano. Poi la Bibbia e il Corano non cambiano, quindi sì, infatti. In effetti uno dice non è che lo compra tutti gli anni. Anche questo è vero, però forse anche i più letti credo fosse il tema. E da quell'anno però poi c'è stata una riduzione, diciamo, della distribuzione, vuoi per motivi ecologici, vuoi anche perché si è sviluppata in qualche modo il digital anche dalla parte di IKEA, e fino a qua, e quindi diciamo il catalogo si trovava soltanto in negozio, uno doveva andare in negozio e lo prendeva lì nel punto vendita. Certo. Invece adesso hanno proprio annullato totalmente il catalogo, ci saranno delle app probabilmente delle app o il sito IKEA che avranno vari tipi di cataloghi, ovviamente digitali, dove si potrà comprare direttamente dal catalogo, perché nel frattempo appunto anche a causa del Covid sono incrementate molto le vendite online di IKEA. Sembra un 45% rispetto all'anno precedente. Questi sono gli ultimi dati che hanno rilasciato. È un po', insomma, la morte dell'album e tornano solo i singoli. È così, è un po' questo. Allora, tante cose sono cambiate, ma è cambiato il Natale. Questa è la stagione anche, ad esempio, degli spot natalizi. Ascoltiamo un pezzettino di uno spot, eccolo qua. All the things to be, I choose a kindness, and if you gave some to me, I think we'd find ourselves here dancing in the street. Questa è la canzoncina di uno degli spot di Natale ogni anno più attesi, un tempo in televisione, adesso ovviamente anche in rete, su YouTube. Questo ha 4 milioni di visualizzazioni. Give a Little Love è il titolo dello spot di Waitrose and John Lewis, una delle catene che fa questi spot di Natale che poi vengono un po' diffusi grazie alla rete in tutto il mondo, finiscono su tutti i giornali online, anche se poi il prodotto pubblicizzato, il servizio pubblicizzato, la catena pubblicizzata non ci sono in tutto il mondo, per esempio in Italia non c'è. Michele, sono cambiati quest'anno gli spot di Natale? Si sono ridotti innanzitutto, e sono cambiati perché è effettivamente difficile per un'azienda trovare il giusto tono di voce per pubblicizzare il Natale, sia perché quest'anno sarà un Natale diverso, e quindi anche quelle tipiche immagini del Natale, dello stare insieme in tanti, gli abbracci, la famiglia, tutti insieme, la solidarietà, eccetera, eccetera, hanno bisogno di immagini, come dire, particolari, non quelle canoniche del Covid, insomma, del Natale Covid. E quindi molte aziende hanno rinunciato a fare un classico spot di Natale, e magari sono andati a raccontare un po' una sorta di fuga dal tempo, e quindi andare un po' sulla dimensione del sogno, dell'infanzia, per raccontare un po' questo Natale diverso dagli altri. Questo ad esempio era un non un cartone animato, insomma a metà tra un cartone animato e un passo uno con la plastilina, quelli che ci ricordiamo con Carosello, una cosa del genere, insomma. Sì, quelli di John Lewis hanno fatto una sorta di animazione CGI live action, anche perché John Lewis quest'anno aveva anche un tema importante che era quello di un sacco di licenziamenti che hanno dovuto, insomma, riorganizzazione delle funzioni, chiusura di 12 punti vendita, e quindi insomma non è che potevano fare uno spot che celebrava il marchio, eccetera. Quindi hanno cercato di trovare un po' un escamotage e puntarla molto anche sulle donazioni, sulla raccolta fondi a supporto di associazioni impegnate in questo caso all'assistenza ai genitori in cerca di aiuto. È difficile quest'anno, lo spot di Natale è proprio, Enrico, è una cosa... Sì, io mi ero accorto già dalla scomparsa degli artigiani della qualità, che avevano segnato un po', cioè lo spot di Poltrone Sofà adesso è molto serioso, un po' più al passo coi tempi, anche se a me dispiace non vedere più questi personaggi molto allegri, però insomma, diciamo che forse questo è un po' l'emblema, visto anche il tormentone di questo spot, era un po' un simbolo del cambiamento di tono, e quindi immagino che i pubblicitari di fronte alle richieste delle aziende siano effettivamente in difficoltà. Michele, secondo te di fronte alle richieste delle aziende o i pubblicitari stessi fanno capire che bisogna cambiare tono? Ma sono un po' gli stessi, perché insomma comunque le pubblicità alla fine arrivano da quelli che vengono detti i brief, no? Quindi le istruzioni che l'azienda dà di quelli che sono i valori o le cose che bisogna comunicare. Poi l'agenzia pubblicitaria utilizza le armi creative, gli strumenti creativi per creare un qualcosa di originale e unico. Quindi secondo me c'è stata anche proprio dal punto di vista delle aziende un dire attenzione oggi a parlare di certe cose, a far vedere certe immagini. Io so per certo che a settembre sono stati girati degli spot pubblicitari con una tavola imbandita con 8-10 persone, e lo spot è stato rigirato poi pochi, insomma un mese fa, perché quello spot non poteva andare in onda perché... Sì, perché ci si aspettava. Perché la situazione era cambiata, certo. Infatti. Poi, con le mascherine o senza mascherine, cioè anche quello vuol dire tanto. Ci sono alcuni supermercati che in Italia mostrano i vari dipendenti con le mascherine, per far vedere comunque in qualche modo l'impegno da parte dell'insegna e della catena in questo periodo così problematico. Alcuni invece cercano invece di non far vedere queste immagini, ma dare un po' delle, come dire, in qualche modo un'immagine ottimista, leggera, piena di speranza. Non è semplice. No, non c'è una ricetta. No, la ricetta sarebbe fate pubblicità solo alla radio. Così avete risolto il problema, no? Bravo. Così. Beh, ragazzi, io direi che quella di Enrico Pagliarini è la posizione definitiva. Vi togliete il pensiero. Esatto, cioè, giusto. Cassate la TV e amen. E pubblicità solo alla radio. Tanto in rete e poi su YouTube può andare lo stesso. Ma sì, video, ci mettete due alberi di Natale come immagine, mettete l'audio e della la radio. Condividono uguale, sì, va benissimo, sì, va benissimo. Sì, va bene. Allora, una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Michele, rimani ancora con noi qualche minuto, perché devo chiederti una cosa di Ivano Boroni, tra poco. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme, io e Enrico Pagliarini stiamo un po' ridendo. Perché Michele, allora io ho detto, Michele, tra poco ti chiederò di Ivano Boroni. Io ho capito, la pausa. Io ho detto, ma chi è Ivano Boroni? Ho detto, magari è suo fratello, no? Invece, ma chi è Ivano? E io, Ivano chi? Ma hai detto Ivano, ma quale Ivano? No, segni di Ivano Boroni. Delle no, cellule scusate, l'ho neuraliche. Dovuto raccontare perché siccome stiamo ridendo a lacrime perché non ci capivamo. Ok. Chiedi, fai la domanda. Sì, di Ivano Boroni con la D. No, perché lui pensava fosse di Ivano Boroni. Sì, Ivano tutto attaccato, Boroni. Tutta una parola, ok? Divano Boroni è un gruppo d'ascolto che Michele Boroni fa su Facebook con un gruppo nutrito di giornalisti, autori televisivi, così. E per un sacco di tempo l'ha fatto su X Factor, che questa settimana si è concluso tra l'altro con questo addio di Cattelan, che insomma, infatti a un certo punto lui su Twitter ha detto comunque sono ancora vivo, grazie, perché sembrava la celebrazione di partita, ma è ancora vivo. Ieri sera esperimento sociologico interessantissimo, perché ha fatto il commento online di The Voice Senior. Allora facciamo una cosa, dai, entriamo in atmosfera con un pezzettino di The Voice Senior, eccolo qua. Io mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. Allora, questo è uno dei concorrenti The Voice Senior, che devo spiegare cos'è. Lo sai. Sì, sì, non l'ho mai visto, però ho sentito commenti, dicono che è molto bello. È molto carino e ha avuto un grosso successo in rete, inaspettato, perché l'idea sulla carta di un talent show con concorrenti over 60 poteva sembrare una cosa così... E invece alla fine magari apprezzatissimo, invece sta avendo un grandissimo successo. Michele, grande esperimento scientifico sul tuo divano tutto attaccato Boroni. Sì, ci ho provato, io avevo visto le prime due puntate e l'avevo trovato veramente bello, cioè emozionante, ma nello stesso tempo anche perché soprattutto le storie che vengono raccontate da questi uomini e donne che hanno sempre coltivato l'amore per la musica non riuscendoci, quindi il sogno nel cassetto, delle storie interessanti, l'amore delle persone che gli stavano accanto, quindi cioè, una storia molto pregnanti, raccontate bene, e poi c'era ovviamente anche la parte divertente con Albano e la figlia, la Bertè, che sono i giudici quindi c'era un bel mix, come dire, tra sentimento e divertimento, e quindi l'ho proposto al gruppo d'ascolto che ha gradito, e quindi continueremo. E quindi si faranno altri Divano Boroni su The Voice Senior. Tra l'altro, questo video che era a mano cantata da Erminio Sinni, un cantante che aveva partecipato a un Sanremo di molti anni fa, che ha continuato a fare piano bar con grande successo ed è molto noto soprattutto a Roma ma anche a Napoli, comunque una carriera musicale anche se non mainstream piuttosto solida, e che ora è uno tra dei favoriti di The Voice Senior. Questo video ha più di 500.000 visualizzazioni, che per un video italiano non da ragazzini in poco tempo, perché sono due settimane, poi non è appunto Alessandra Amoroso e Bunda Bash che i ragazzini della scuola superiore, perché criticano che io dico liceo per brevità, no, della scuola superiore guardano, anche delle medie, devi essere magari più adulto, meno avvezzo a YouTube, invece è un video che sta andando comunque molto bene. Sì, a fine anno va a 1 milione. Potrebbe andare a un milione di visualizzazioni. Vediamo, insomma, mi è sembrata una bella pensata. Michele, allora poi io tornerò su Divano Boroni. Ormai... invitato, anche Enrico è invitato. Enrico, anche tu su Divano Boroni. Sì. Me lo sono segnato. Bravo, andiamo a commentare. Ho tolto l'apostrofo e ho fatto... grazie a Michele Boroni, a presto. Ciao a voi. Grazie Michele. Ciao. Allora andiamo ancora a qualche video della settimana. Ah, questo video è il primo nelle tendenze italiane, è stato pubblicato in realtà poco più di un giorno fa ed è già primo nelle tendenze italiane. Ascoltiamo l'inizio, eccolo qua. È stato clonc. Ciao Giacomino. Ciao. Cosa c'è? C'è un sonno della miseria. C'è bisogno di partire alle 6 del mattino. Dobbiamo andare a Siracusa e ci vorranno, non so, 15 ore. Ma perché dobbiamo andare a Siracusa a passare il Natale? Ci ha invitato Aldo, cosa si poteva dire di no? Scusa, entri in macchina senza aprire la portiera. Perché non c'è una portiera in questa macchina. Ma porca, te l'avranno ciulata. Che ciulata. E poi stai in piedi in macchina, Giacomo. Ma scusa, non c'è il tettuccio aperto? Ma che è inverno, il tettuccio aperto. Vabbè che tu stai in piedi anche nel 126. Che ritoso. Ma cosa fai? Tiri su il sedile, c'è quattro porte, tiri su il sedile. Ma scusa, quattro porte, tre sedili, ma che cazzo di macchina hai comprato? Che questa è una hybrid. Cos'è? Hybrid si dice, perché qui hanno sacrificato un sedile per le batterie. Senti, e com'è il clacson? Fa sentire, che a me piace sempre il suono del clacson. Il clacson deficita un po', purtroppo. Quindi è proprio la Subaru baracca. Ha risparmiato. Sarà anche questo. Hybrid, ma è baracca. Allora, te lo ricordi il video della Subaru baracca? Mi ricordo proprio il clacson. Anni 90, però avete sentito? È nuovo il video, l'hanno rifatto perché hybrid, all'epoca hybrid. Non c'era hybrid. Allora è molto divertente perché hanno collaborato con Subaru, davvero. No, infatti chiedevo come mai hanno rifatto il video. Posso dire che effettivamente, complimenti all'autoironia dei signori della Subaru che per hanno... chi si è perso qualche puntata sono... Aldo, Giovanni e Giacomo, sono tutti e tre o solo sì, due? Sì, sì, Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo davo per scontato qui io, perché davvero volevo sono... Volevo essere sicuro io. No, hai fatto bene. No, hai fatto bene. Io andavo proprio, per me dire Subaru baracca è direttamente... magari qualcuno si è perso. No, ma hai ragione, sono io che... Quindi la Subaru ha avuto questa bella idea di dire, certo, visto che adesso ci sono le macchine ibride, dobbiamo riaggiornare questo video. Riaggiorniamo... Dove lo hanno realizzato? In che senso dove lo hanno realizzato? Cioè, no, nel senso ci sono fisicamente in teatro, loro? Allora, sono insieme Giovanni e Giacomo e Aldo collegato da casa. Quindi anche lì c'è un po' di smart working. E no, l'ho trovata un'idea molto carina. Anche lì le aziende che hanno le idee carine, insomma. Adesso sto guardando quante visualizzazioni ha in questo momento, se lo troviamo. 673.414 e in 24 ore, e ha 81.932 pollici in su con 468 pollici in giù, diciamo. Vabbè, c'è sempre qualche contrario. Numero uno nelle tendenze italiane, e effettivamente è buffo perché poco sotto c'è il video di qualche annetto fa. E sono un filino invecchiati, ma poco, bravi. No, bravi. È una bella idea. Ragazzi, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, Enrico. Allora, devo ringraziare tantissimo Enrico Pagliarini, che è tornato in radio per fare Radio Tube come questo pomeriggio. Domani mattina sei in turno a che ora? No, tardi, alle 7. Alle 7, cioè, con uno calma. Uno può fare il giro della tangenziale di Milano tutta intera. Ma con tardissimo. Devo ringraziare tanto anche Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione. Domani mattina ci troviamo dopo il giornale radio delle 7 con gli Eugenio in Via di Gioia per Radio Tube l'intervista, e poi per Radio Tube ancora sabato prossimo.